Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:08. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 è il numero per intervenire in diretta via SMS. Di cosa parleremo oggi? In parte ve l'abbiamo anticipato già durante il giornale radio. In una giornata di borse negative anche a causa cosiddetto credit watch di ieri di Standard & Poor's, ossia il fatto che Standard & Poor's ha messo sotto osservazione il giudizio su 15 paesi dell'eurozona, e tra questi insomma non ci sono solamente i periferici, naturalmente essendo 15, ma sono praticamente tutti. Tra gli altri anche la Germania, ci sono la Francia e l'Italia che rischiano il taglio del giudizio di due gradini addirittura. Parleremo di mercati, parleremo di Standard & Poor's perché molti si sono posti dei dubbi sul tempismo di Standard & Poor's. Insomma, è possibile che proprio ieri, quando i mercati hanno iniziato a festeggiare una sorta di uscita dal tunnel o i segnali di uscita dal tunnel con la manovra italiana che aveva un effetto positivo sul rendimento dei titoli di Stato italiani e sullo spread, con i mercati che sono andati molto bene, con Sarkozy e la Merkel che sembravano essersi accordati sul futuro dell'eurozona, è possibile che Standard & Poor's intervenga proprio adesso? Di questo parleremo naturalmente. Parleremo però in apertura ancora di manovra nella prima parte della trasmissione. Oggi ci concentriamo su due punti. Il primo è quello che tanto ci avete segnalato anche ieri, che è quello dei costi della politica. Si è detto la manovra ha fatto poco da questo lato. C'è il taglio per quel che riguarda le province, però insomma si potrebbe fare molto di più, e ne parleremo con Sergio Rizzo del Corriere della Sera. E poi ci occuperemo di un aspetto specifico, ossia la nuova imposta di bollo sugli strumenti finanziari. Vedremo di capire esattamente come funziona. E poi, come di consueto, il commento sul mercato. Mercato che vede il FTSE MIB in calo dello 0,6%, il FTSE All Share altrettanto dello 0,58%, Parigi giù di mezzo punto percentuale, Francoforte dell'1,14%, mentre è appena positiva l'America con il Dow Jones che guadagna lo 0,21%. Prima di tutto le notizie in breve. Oro in calo in apertura in Asia stamattina, $1710 l'oncia, in calo anche il petrolio a $100,49 al barile. A proposito di petrolio, di carburanti in questo caso, c'è da segnalare che per quanto riguarda la parte della manovra che riguarda le accise sui carburanti, al contrario di quello che si immaginava, cioè un aumento previsto dal 1 di gennaio, l'aumento arriverà a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Quindi le aliquote su benzina e diesel saliranno rispettivamente di 8,2 centesimi al litro, quindi la benzina, e di 11,2 per il gasolio. Ci sono altre notizie che stanno arrivando in questi minuti sulla manovra, sono quelle che emergono dalla relazione tecnica che le agenzie stanno anticipando. Allora, il blocco dell'indicizzazione delle pensioni all'inflazione riguarda praticamente tre quarti degli assegni, il 76,5%, e darà risparmi, secondo la relazione tecnica, per 3,8 miliardi di euro nel 2012. È un dato però al lordo delle minori tasse che lo Stato non incasserà per il mancato aumento degli assegni. Dalla relazione tecnica emerge anche che arriveranno 11 miliardi dalle tasse sulla casa e 3,8 miliardi sulle prime case. Di Standard & Poor's si diceva poco fa, ha messo sotto osservazione il rating di 15 paesi dell'Eurozona, Germania compresa, Italia e Francia che rischiano una riduzione di 2 gradini, a perdere la tripla A potrebbero essere anche Olanda, Austria, Finlandia e Lussemburgo. Gli unici due paesi dell'area euro, esclusi dalla lista dei possibili declassamenti, sono in realtà quelli che sono stati già declassati, ossia la Grecia e Cipro. Conseguentemente, come c'era da aspettarsi, l'agenzia di rating ha messo sotto osservazione anche il giudizio sul Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, l'IFSF, come conseguenza appunto della decisione presa per quanto riguarda i paesi. Il fondo rischierebbe così di perdere la AAA se uno dei suoi garanti dovesse subire un declassamento. Tornano a parlare dalla Francia e dalla Germania, Sarkozy che dice che la situazione è grave e il paese ha bisogno di unità, la Merkel che ribadisce andiamo avanti sulla strada tracciata insieme ai francesi. E va controcorrente il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble a Vienna e dice che la minaccia di Standard & Poor's è un incoraggiamento e la migliore motivazione possibile per il prossimo summit europeo. Nel frattempo dalla Germania arrivano ottime notizie dal lato macroeconomico. Vi abbiamo detto della notizia di ieri che probabilmente quest'anno le esportazioni tedesche supereranno i 1.000 miliardi di euro. Intanto volano gli ordini all'industria, hanno segnato a sorpresa un balzo mensile del 5,2% dopo 3 cali mensili consecutivi. Le attese erano per un aumento dell'1%. Per quanto riguarda la manovra, in parte quello che vi abbiamo già detto, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge, la Ministra del Welfare Elsa Fornero dice la manovra ha un respiro di lungo termine in modo che gli italiani non ne debbano avere altre nei prossimi anni e dice punto all'addio alle pensioni di anzianità nel 2018. Sentiamola al microfono di Elisabetta Fiorito. Allora, se voi volete sapere se il 2018 è l'anno ultimo in cui le pensioni di anzianità saranno tutte ghigliottinate, la risposta è no, però vanno a morire. Adesso lì stavo parlando, non leggevo il decreto, vanno a morire. Come le pensioni di anzianità vanno a morire perché quando ci sarà il sistema contributivo, e quindi ci conterà solo più l'età minima di accesso al pensionamento, e per andare in pensione col metodo contributivo basteranno 20 anni di anzianità. Quindi basteranno 20 anni, ci vorrà un requisito di pensione, ma non ci sarà più questa cosa. Vedo già molti messaggi su Standard & Poor's e sulle agenzie di rating, ci arriveremo più avanti, ne parleremo con Donato Masciandaro che è un professore alla Bocconi, come sapete, un editorialista del Sole 24 Ore. Adesso vogliamo parlare di costi della politica. Come sapete, quello che è arrivato dalla manovra da questo lato è che i consigli provinciali potranno essere composti al massimo da 10 membri, saranno abolite le giunte, sarà dichiarato per intero il patrimonio dei componenti del governo. Il presidente, tra le altre cose, e questo riguarda invece il governo in se stesso, il presidente del consiglio, come sapete, Mario Monti, rinuncia al suo compenso, saranno ridotti i componenti delle 8 authority, è in programma anche la riduzione del numero di consiglieri regionali. Si è detto non basta. Saluto Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, autore con Gian Antonio Stella della Casta e di Licenziare i Padri Eterni, l'Italia tradita dalla casta, entrambe edizioni Rizzoli. Buonasera Rizzo. Buonasera. Allora, oggi date qualche consiglio al Premier, per così dire, perché si è detto, è vero che le Camere hanno la loro autonomia, Però è vero anche che il governo, anche da questo lato, può intervenire, oltre che su altri capitoli che poi vorrei toccare con te. Inizierei dalle Camere, perché su questo su quello su cui si concentrano anche gli SMS di molti ascoltatori. Ma il ragionamento che abbiamo fatto noi è abbastanza semplice. Qui non si tratta di intervenire sull'autonomia di Camera e Senato, perché loro rivendicano il fatto di prendere autonomamente le proprie decisioni, e quindi il governo non, devo dire, non l'ha mai neanche fatto, quello di stabilire come devono al loro interno essere modulate le spese. Però il governo una cosa può farla, e fermo restando che Camera e Senato hanno chiesto fino al 2013 e la Camera fino al 2014 gli stessi soldi che il Tesoro gli dà oggi. E beh, il Tesoro può anche dire: guardate, voi chiedete quello che volete, ma noi vi diamo quello che possiamo darvi. Non ci sarebbe niente di male se il Tesoro autonomamente decidesse di non dare l'intera dotazione che viene richiesta, ma darne, non so, invece di 1 miliardo, per esempio, la Camera, 900 milioni. Non ci stanno dentro con 900 milioni. Sarebbe anche forse un modo per incentivare una riduzione delle spese autonoma. Inoltre c'è da considerare che Camera e Senato hanno da parte dei tesoretti mica da ridere, perché noi abbiamo fatto un conto, ma hanno avanzi di amministrazione da parte per qualcosa come 500 milioni di euro, più un fondo di solidarietà fra i deputati che vale altri 180 milioni, quindi diciamo, soldi ne hanno abbastanza. Sarebbe stato probabilmente anche una cosa, certo, ci rendiamo conto che ci vuole molto coraggio per fare un'operazione di quel tipo, perché si tratta di entrare a piedi uniti su una materia su cui il Tesoro si è sempre guardato accuratamente dall'entrare, però in questo momento secondo noi va fatta una cosa del genere, assolutamente, il momento del coraggio. Allora, ecco, il lato, la famosa questione vitalizi deputati e senatori, si passa al contributivo dall'inizio dell'anno prossimo, però probabilmente si potrebbe fare qualcosa di più, perché è vero che i diritti sono acquisiti, no? E quindi, però forse si può ragionare su qualcos'altro. Anche i nostri diritti erano acquisiti, se è per questo. No? I nostri diritti di andare in pensione a una certa età e con un certo numero di contributi erano acquisiti, poi vengono cambiati di continuo, ma di questo noi non ci possiamo lamentare, perché è giusto così, diciamo, no? Sono sacrifici che bisogna fare, però la logica vorrebbe che si facessero anche loro. Allora, io non nego che il contributivo per i vitalizi sia un passo avanti, però è più proprio piccolo. Perché qui la vera riforma che dovevano fare non l'hanno fatta, ed era quella di trasformare il periodo di permanenza in Parlamento come un tratto della vita professionale di ciascuno, quindi i contributi, no, riversarli all'ente di previdenza in qualche modo di appartenenza. È come se uno cambiasse lavoro sostanzialmente alla fine per avere soltanto una pensione. Invece adesso tutti i parlamentari hanno sia la propria previdenza che riguarda la propria attività professionale, che poi a 65 anni si sommerà, o a 60 nel secondo i casi, o forse anche prima, dipendentemente dalle situazioni, si sommerà al vitalizio, quindi alla fine avranno due pensioni, e questo secondo me non va assolutamente bene. Questo per parlare solamente delle Camere, di Camera e Senato. In realtà poi, come sappiamo e come avete raccontato voi benissimo, tu e Gian Antonio Stella, come ha anche raccontato il Sole 24 Ore, i rivoli nei quali si disperde il denaro pubblico sono tantissimi, e molti sono quelli locali. Vorrei parlare con te della questione dei gettoni di presenza, perché questo è un altro tema, sì. Niente male. Sono tutti diversi e non va bene. Dovrebbe esserci un criterio più o meno di uniformità. Intanto sono tutti diversi quelli fra le regioni, fra i comuni delle regioni normali, diciamo ordinarie, e quelle delle regioni a statuto speciale. Ma sono tutti diversi anche all'interno delle stesse regioni. Mi pare che in Veneto ci sono delle differenze, da Padova che mi pare sia 45 euro a seduta fino a adesso non vorrei sbagliarmi, forse con Treviso, che parliamo di cifre forse tre volte superiori. Sì, è Verona. Sì. Quindi lì c'è da fare un grosso lavoro di omogeneizzazione. E poi soprattutto c'è da fare invece un lavoro che riduce gli abusi, che stronca gli abusi, perché gli ascoltatori non so quanti lo sanno, ma c'è un meccanismo molto curioso in base al quale i comuni devono rimborsare le aziende per il tempo in cui i consiglieri comunali non sono presenti in quanto impegnati in attività, come dire, istituzionali. Allora, che cosa accade? Accade per esempio che, questo succede, è successo a Palermo, accade che il consigliere Taldetali, una volta eletto, si fa assumere dalla moglie, no? Con uno stipendio favoloso, e poi non va mai a lavorare al negozio della moglie, e il comune è costretto a rifondere lo stipendio interamente, e parliamo di situazioni dove si arriva a diverse migliaia di euro, per non parlare dei gettoni che riescono ad arrivare cumulando sedute, magari nella stessa giornata, sedute finte, anche a 2-3 mila euro al mese. E quindi lì ci bisogna introdurre necessariamente una norma che stronchi questi abusi indecenti, prevedendo per esempio che i rimborsi dei comuni alle aziende che, diciamo, offrono gentilmente i propri dipendenti all'attività istituzionale siano parametrati sulla paga dell'anno precedente all'elezione. In questo modo si otterrebbero molti risparmi. Non avete neanche idea di quanto. Allora, tornando a questioni di sistema, perché giustamente, Sergio, ce lo chiedono molti ascoltatori. Il famoso scandalo dei rimborsi elettorali, che ha come dire, una doppia faccia, no? Al di là di quanto spendiamo, c'è la questione dei benefici che uno ottiene nel dare soldi ad un partito. Sì. Come funziona? Beh, funziona che se noi diamo dei soldi ad un partito o a un politico, parliamo dei privati cittadini perché per le aziende è un po' diverso il regime, possiamo detrarre dal nostro imponibile il 19% di quello che abbiamo versato, ma qui è bello, fino a un tetto di 103 mila euro, che è l'equivalente dei vecchi 200 milioni di lire, perché la normativa risale all'epoca. Questo significa che se io do 100 mila euro ad un partito, posso risparmiare 19 mila euro. Che me le restituisce il fisco sostanzialmente. Mentre invece se io do un finanziamento di 100.000 euro ad un'associazione benefica, poniamo un'associazione di ricerca per la sclerosi multipla o cose di questo tipo, posso detrarre anche in quel caso il 19%, ma soltanto fino a un tetto di 2.065 euro, mi pare, una roba del genere. La conseguenza qual è? Che se io do 100.000 euro a un partito risparmio 19.000 euro, se ne do la stessa somma ad un'associazione benefica risparmio al massimo 392 euro, e questa è una cosa che non è assolutamente accettabile. Unita al fatto che nel 2006 è stata introdotta una norma di opacità in base alla quale i finanziamenti privati entro i 50.000 euro possono rimanere perfettamente occulti, cioè non c'è l'obbligo di dichiararli. E questa crediamo che sia veramente la cosa ulteriormente scandalosa. Assolutamente. Ci chiedono, Sergio, se vai in giro con la scorta agli ascoltatori via SMS. Io no, però invece sulle scorte ci sarebbe ci sarebbe parecchio da fare, perché io mi aspetterei fra i vari gesti di coraggio forse qualche gesto che si potrebbe fare immediatamente, magari che poco significativo dal punto di vista economico, però molto significativo dal punto di vista, diciamo, dell'immagine di sobrietà che deve dare, diciamo, la nuova stagione politica. Io vorrei vedere, per esempio, domani un comunicato stampa, no, della presenza del Consiglio dei Ministri, del governo, di chi è, che mette all'asta 1.000 auto blu. Oppure vorrei vedere un comunicato del Ministero dell'Interno che dice che dal prossimo lunedì sono ridotte del 50% le scorte ai politici, e questo penso che sarebbe una buona notizia anche per un governo che, non potendo avere molta popolarità presso i partiti politici, e sappiamo perché, però necessariamente deve avere la sua popolarità presso la gente, che non ne può più di certe situazioni. Sì, ricordate voi tra l'altro su questo tema che a Roma girano ogni giorno 8 auto di scorta. Per il rapporto è di 8 auto di scorta per ogni gazzella dei carabinieri, più o meno, insomma, quindi il livello è decisamente significativo. Ultima questione, la trasparenza, sulla quale il governo ha, mi sembra, dato l'esempio, sta cercando di dare l'esempio. Immagino che, visto l'impegno pubblico preso da Monti, arriveranno presto tutte le dichiarazioni patrimoniali dei ministri e così via. Però, insomma, anche a questo lato ci dovrebbe essere una regolamentazione più chiara, perché se non sbaglio le dichiarazioni dei redditi dei deputati devi andare alla Camera dei Deputati a prendertele, no? Sì, adesso c'è qualcuno che le mette direttamente nella sua pagina, qualcuno le ha cominciato a metterle, però è assolutamente volontaria questa cosa, non è previsto che vengano messe su internet, e sappiamo invece quanto è importante con la diffusione adesso della rete e del web per accedere a queste cose con un click facilmente. Quindi noi potremmo, perché non domando perché non possiamo fare come in Gran Bretagna, dove si mette tutto assolutamente sui siti internet, non c'è nessun tipo di, eppure anche lì ci sono leggi che prevedono questa cosa, ma evidentemente la dimestichezza con, diciamo, le regole della democrazia elementare in Gran Bretagna sono un po' diverse, no? Sì. Da quelle italiane. Tra gli esempi ci piace ricordare, per esempio, ci piace ricordare Alessandro Bratti, che è un deputato del PD che pubblica addirittura un bilancio sociale sul suo sito. Sono una cinquantina di pagine nelle quali descrive tutta la sua attività da parlamentare e come ha speso esattamente i soldi, che devo dire non è male, sarebbe quasi un esempio da prendere, ma appunto è tutto volontario. Grazie a Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, per essere stato con noi, e buonasera. Grazie a voi, buonasera. E poi ci raccontate storie singole di titolari di partiti, insomma, di capi di partiti, piccoli partiti che con i rimborsi elettorali si sono fatti la villa, storie anche locali. Ci chiedete se Sergio Rizzo ha già fissato un incontro con Monti, altro che parti sociali, vabbè. Battuta non male. Comunque, noi adesso ritorniamo a bomba sulla manovra, subito dopo una breve pausa, e tocchiamo il tema dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari. Cercheremo di capire come funziona tra poco. Le 17:35 minuti e 10 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, e adesso torniamo sulla manovra. Stiamo cercando progressivamente, le cose si chiariscono anche su questa manovra, insomma, adesso che inizia ad esserci il testo tra l'altro firmato da Napolitano, iniziano a chiarirsi le cose e cerchiamo di fare un po' di chiarezza anche noi su singoli capitoli. Per questo, come sempre, naturalmente c'è anche il Sole 24 Ore, anche e soprattutto il Sole 24 Ore. Domani in edicola c'è, come al solito, un'edizione speciale dedicata alla manovra, una guida alla manovra che inizia domani. Testi commentati, analisi degli esperti, gli esempi di applicazione, le risposte alle domande dei lettori su casa, pensioni, auto e risparmio e, come sempre, il manuale antipanico. In questo caso parliamo di tracciabilità e vincoli per l'uso del contante. Ed è proprio un collega del Sole 24 Ore che ospitiamo oggi, che è Maximilian Cellino. Buonasera, Maximilian. Buonasera a voi e agli ascoltatori. per parlare appunto dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari, della quale già ci chiedevate ieri via SMS. Allora, Maximilian, come funziona a grandi linee? Poi scendiamo nel dettaglio. Beh, diciamo anzitutto che è una sorta di rivoluzione, l'hanno chiamata mini patrimoniale o piccola patrimoniale, non sappiamo a questo momento, stiamo facendo dei calcoli per capire se si pagherà di più o di meno. È chiaro che si pagherà in maniera diversa, perché sarà un'imposta proporzionale, mentre invece il precedente imposta di bollo sul deposito titoli, che a questo punto va a cadere, insomma, quella introdotta, anzi quella rivoluzionata quella scorsa estate dal governo Berlusconi, funzionava a forfettario, a soglia, insomma, oltre una certa soglia, oltre 50.000 euro si pagava più dei 34,20 euro di base, e poi così via fino ad arrivare ai 1.100 euro. Adesso si pagherà in proporzione, pare, diciamo, le bozze che abbiamo potuto vedere ieri sera, si parla di una quota dello 0,1% sugli strumenti finanziari, che diventerà lo 0,15% a partire dal 2013. Attenzione, ho parlato di strumenti finanziari, ecco, perché è la prima grande novità. Che cosa rientra all'interno di questa imposta di bollo? Prima era decisamente diverso, cioè erano esclusi molti strumenti. Adesso, diciamo che prima rientravano gli strumenti che rientravano nel raggio di azione che obbligatoriamente entravano in quel contenitore che era il deposito titoli, per cui titoli azionari, obbligazionari, ma anche altri strumenti tipo ETF oppure certificati di investimento. Adesso invece si allarga decisamente il campo di azione. Prima rimanevano al di fuori altri strumenti finanziari come i fondi comuni, che adesso entreranno a pieno titolo in questa forma di prelievo. Non solo, ci saranno rientreranno anche le polizze vita, rientreranno probabilmente, da quanto abbiamo potuto appurare, anche i buoni fruttiferi postali, che in precedenza rimanevano fuori dal raggio dell'imposta. È importante chiarire, perché arrivano molte domande in questo senso, non rientrano i conti correnti bancari e anche i conti deposito, quei conti deposito ad alti rendimenti. Tutti sono un po' preoccupati perché hanno messo il denaro, le famiglie italiane hanno messo il denaro molto in questi strumenti in questi ultimi tempi. Ecco, questi non dovrebbero rientrare perché non sono strumenti finanziari tout court. Questo per quanto riguarda il raggio d'azione. Quello che ci interessa capire però è anche l'altra novità, cioè nella normativa precedente c'era quella che veniva considerata una grossa distorsione, ossia la tassazione sul valore nominale degli strumenti finanziari che si avevano in portafoglio. Anche questo cambia? Sì, cambia, perché si utilizza il valore di mercato. Gli specialisti utilizzerebbero quella orrenda locuzione anglosassone che è il mark to market, cioè il valore di mercato di un titolo al termine probabilmente del periodo di rendicontazione, o si farà una media, questo è ancora da stabilire, nel senso che voi riceverete tecnicamente dei rendiconti annuali, semestrali, mensili o trimestrali, ed è proprio su questo, sul valore indicato in quel rendiconto, che voi dovrete pagare la vostra imposta di bollo. Ovviamente un'imposta di bollo 0,1% è annuo, sarà redistribuito in maniera all'interno dei vari periodi. Se è trimestrale non pagherete lo 0,1% trimestrale. Ci chiedono se rientreranno anche i fondi SICAV, certificati di deposito. E i fondi, sì, i fondi comuni sicuramente, sì. È proprio per andare a cercare questa tipologia di strumenti che è stato cambiato la modalità. D'altra parte, personalmente non ritengo nemmeno corretto che magari l'imposta di bollo si pagasse su BOT BTP e non su un fondo, una SICAV, quello che volete, che investe su BOT o BTP. C'è una distorsione evidente che adesso sarà colmata. Certificati di deposito? Sì, credo di sì. Mm. Vediamo, insomma, è un po' da stabilire, credo di sì, però credo che siano strumenti finanziari certificati di deposito. Diversamente dai depositi che vediamo quelli con come accennavo prima, con grandi tassi di interesse. A meno che non ci siano strutture particolari sotto questi conti di deposito che vediamo spesso pubblicizzati, perché se sotto, per esempio, c'è una struttura che è un pronti contro termine, è chiaro che va a finire all'interno di uno strumento finanziario. Se esistono alcuni conti deposito che in realtà per darti conti deposito vincolati per darti quel 4% non fanno altro che acquistare bot e intestarli al cliente, in quel caso è da vedere, perché potrebbe essere che si applica anche su quella, giustamente, perché uno in realtà nel periodo dei 12 mesi, dei 6 mesi in cui vincola il capitale ha in mano un bot. Ci chiedete i derivati, beh, se non sono prodotti finanziari, beh, quelli, sì, insomma. Sì. Questo il quadro per quanto riguarda questo pezzo della manovra. Con te, Maximilian, volevamo affrontare anche un'altra questione, più generale, se vogliamo, e che riguarda, in realtà riguarderà da vicino anche i risparmiatori, comunque, che è la questione delle banche, delle norme per aiutare le banche. Che cosa è contenuto esattamente dentro la manovra, da quel che sappiamo sempre, naturalmente? Sì, la manovra fa riferimento a un programma europeo, non è soltanto italiano, di aiuto alle banche. Si sta tentando di reintrodurre una garanzia di Stato, una sorta di garanzia di Stato sulle emissioni obbligazionarie delle banche. Non è un mistero che le banche fanno fatica a raccogliere denaro, soprattutto a medio e lungo termine. Adesso è raro vederle andare sul mercato per piazzare le obbligazioni, proprio perché c'è una sorta di sfiducia generale, il mercato si è bloccato. Questo mette fortemente a rischio le banche, che non riescono a raccogliere. Si dice che le banche siano a posto, le banche italiane siano a posto per tutto il 2011 e per la prima parte del 2012, ma se la tensione rimane questa, a primavera già vedremo i primi nodi, anzi li stiamo già vedendo adesso. Questa è una sorta di garanzia dello Stato, lo Stato ovviamente si fa pagare, è una sorta di garanzia dello Stato su emissioni che potranno essere di durata differente, dovranno essere però emissioni semplici, perché saranno a tasso fisso, denominate in euro, non saranno subordinate, quindi il più semplice possibile. Occorre vedere intanto il costo, perché per le banche sarà un costo abbastanza rilevante, ci sono delle commissioni, e poi vedere se poi all'atto pratico riusciranno le banche ad emetterle. Allora, ancora due questioni, perché poi veniamo ai mercati, alle borse, con Milano che ha chiuso in calo di circa 0,5%. La prima domanda, ci chiedete in sostanza se limite massimo, il tetto massimo di 1.200 euro è per singola banca. Maximilian, mi sembra che anche su questo non ci sia ancora chiarezza definitiva. È una bella questione questa qui, dovrà essere riformulato probabilmente l'articolo, ci dovranno essere spiegazioni successive. Intanto diciamo che c'è un limite, una misura minima del prelievo, che sono i vecchi in realtà 34,20 euro, e una misura massima che sarebbero 1.200 euro, ma non è chiaro, perché la norma dice che l'imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari è dovuta nella misura minima 34,20 e massima 1.200 euro. Non si capisce se è per ciascuna banca, ma anche per ciascuno strumento. Questo può essere anche paradossale, perché provo a immaginare una persona che ha diviso paradossalmente i propri denari in 10 fondi di 10 banche diverse, si vede arrivare 10, magari anche spiccioli, si vede arrivare 10 estratti conto diversi, in teoria deve pagare 342 euro, mentre invece una persona che ha 10 fondi sulla stessa banca, al limite vorrebbe pagare soltanto 34,20 euro se questi sono. Quindi è una cosa che andrà ripensata. Ultima domanda, ci dice un ascoltatore: sono in perdita con azioni e obbligazioni, cosa pago la perdita? Beh, qua il punto è proprio questo: cambiano le cose, nel senso che in realtà si paga. Come funziona, Maximilian? Non solo, attenzione, non facciamo confusione tra la tassazione delle rendite finanziarie, quella che è stata portata al prelievo dal 12,5 al 20%, questo è sui guadagni guadagni, sul capital gain, sulle cedole che ricevete. Questa è una tassazione sullo stock di investimenti finanziari che avete, sulla ricchezza. Quindi pagate anche sulle perdite, pagate su quello che avete. Infatti è lo 0,1 per mille, non si parla di 12,5% o 20%. È una quota notevolmente più bassa, ma lo pagavate anche prima indirettamente sul conto titoli. Grazie dunque a Maximilian Cellino del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Parecchio trovate anche naturalmente sul quotidiano di domani. Adesso è il momento della borsa. Paolo Paronetto, Radio Coro Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Tra poco, subito dopo il giornale radio, dopo le 18, parleremo di Standard & Poor's e dei molti dubbi che sono stati sollevati sul tempismo di questo intervento. Intanto dici che impatto ha avuto sui mercati. Beh, un impatto limitato, a dire la verità, si temeva addirittura peggio questa mattina in avvio, ma alla fine le borse europee sono riuscite a contenere i danni. La peggiore è stata Francoforte, che ha perso l'1,3%, Piazza Affari ha contenuto le perdite sotto il mezzo punto percentuale, diciamo sul mezzo punto percentuale, 0,46 il FTSE All Share, 0,49 il FTSE MIB. Diciamo che il mercato rimane concentrato sugli appuntamenti europei di questa settimana, in particolare il vertice di venerdì, attende di capire quali saranno le mosse messe in campo dai governanti dell'Eurozona per fronteggiare la crisi del debito, e diciamo che non ha scontato più di tanto la decisione di Standard & Poor's. Secondo alcuni, appunto, se le misure che saranno decise saranno tali da rassicurare i mercati sulle capacità decisionali dell'Europa, e di fatto questo credit watch negativo, cioè questa minaccia sulla rating di 15 paesi, potrebbe risolversi in un nulla di fatto. Comunque, mezzo punto percentuale di calo per il FTSE MIB, lo 0,46% per il FTSE All Share, Parigi giù dello 0,68%, Francoforte ne ha risentito un po' di più, meno 1,27%, forse anche perché l'ipotesi di un downgrade della Germania era lievemente più inaspettato, per così dire. Ti porterei adesso sui singoli titoli, iniziando da Finmeccanica, meno 4,83%, iniziamo da quelli negativi, poi andiamo sugli altri. Sì, Finmeccanica, ricordiamo che ieri era stata tra i titoli migliori, oggi invece il titolo ha risentito, anche qui si tratta di Standard & Poor's, che ieri, nella serata di ieri, ha tagliato proprio il rating a lungo termine della società, mantenendo inoltre l'outlook negativo. La decisione arriva come risultato dei conti economici presentati nelle settimane scorse e dalla società, nonché dall'analisi del piano di riassetto e rilancio annunciato al mercato, quindi una decisione che proprio verte sul business della società, che ricordiamo viene dal cambio al vertice con l'uscita la settimana scorsa del presidente Pierfrancesco Guarguaglini. Oggi il titolo è stato il peggiore del paniere principale, appunto ha perso il 4,83%. Bancari, come si dice, a due facce, il Monte dei Paschi guadagna l'1,44%, la Popolare Emilia Romagna l'1,34%, giù Intesa San Paolo dello 0,8% e giù la Popolare di Milano del 3,28%, Unicredit giù dell'1,32%, come mai? Sì, proprio sulle banche non c'è stato in modo generalizzato il temuto effetto Standard & Poor's, che avrebbe potuto riflettersi in primo luogo proprio sui titoli bancari. Il merito è della tenuta dello spread tra BTP e Bund, che ha chiuso ancora in lieve calo rispetto a ieri a 368 punti base, quindi ben al di sotto della soglia psicologica dei 400 punti. Diciamo che su alcune banche che ieri, ricordiamo, erano tutte positive, sono scattati alcuni realizzi, mentre ad esempio il Monte dei Paschi di Siena continua a beneficiare più di altri delle novità introdotte dalla manovra economica sulle garanzie di Stato, sulle emissioni di debito delle banche, inoltre sulla possibilità di movimenti nell'azionariato. C'è sempre l'ipotesi di una discesa della fondazione col possibile rafforzamento di altri soci storici. Ricordiamo inoltre che tra domani e dopodomani sono attese le nuove stime dell'autorità europea sui fabbisogni di ricapitalizzazione. MPS era tra le più penalizzate dalle precedenti stime, il mercato spera che i nuovi numeri siano più favorevoli al gruppo toscano. Ci chiedete un aggiornamento dal lato dell'andamento dei titoli di Stato. Allora, il rendimento dei titoli decennali italiani, anche se l'abbiamo dato in apertura di trasmissione, ve lo ridiamo, il rendimento dei decennali italiani, del BTP a 10 anni, è al 5,86%, lo spread, ossia il differenziale di rendimento con i titoli di Stato tedeschi, sempre a 10 anni, è ancora oggi in calo, esattamente a 368 punti. Ritorniamo invece sulle borse. Tra i titoli in positivo c'è Eni, che guadagna mezzo punto percentuale. Sì, in questo caso si tratta di una raccomandazione positiva arrivata da una banca d'affari che è Deutsche Bank, che oggi ha alzato il giudizio sul titolo del gruppo petrolifero consigliando l'acquisto, quindi il nuovo rating è buy. Eni ne ha approfittato, è stata positiva per gran parte della giornata. Inoltre tutto il settore petrolifero europeo è lievemente in rialzo di circa lo 0,3%, nonostante un prezzo del petrolio in lieve flessione, quindi è stata una giornata positiva anche per gli altri titoli europei del settore. C'è qualcos'altro da dire, e questo qualcos'altro riguarda Fondiaria Assai, Paolo? Sì, su Fondiaria Assai, che è stato il secondo titolo peggiore, ha perso il 4,3%, alcune indiscrezioni di stampa sollevano dubbi sulla possibilità che l'ISVAP dia il via libera alla creazione e alla costituzione del veicolo previsto dalla società per far confluire tutte le proprie partecipazioni strategiche in vista di una futura dismissione, un'operazione da cui la compagnia attenderebbe benefici sul fronte del margine di solvibilità. Inoltre l'incontro con l'ISVAP è atteso domani, inoltre la prossima settimana ci dovrebbe essere un consiglio di amministrazione che potrà valutare le altre operazioni di capital management a disposizione, e sul mercato tornano a rincorrersi alcune voci di un nuovo possibile aumento di capitale. Grazie anche a Paolo Paronetto di Radio Cor Il Sole 24 Ore, e buonasera. Buonasera. Buonasera. Ci chiedete ancora sulla questione del deposito titoli, dite sto sotto con azioni e obbligazioni varie, ho perso tutto con Alitalia, dovrei pagare i bolli in più, ci scrive Damiano da Roma. In realtà l'imposta di bollo la pagava pure prima sul deposito titoli, viene semplicemente ampliato lo spettro di strumenti che rientrano nell'imposta di bollo, e viene applicata una proporzionalità, cioè invece di un'imposta di bollo di 34,20 euro ce n'è una sullo 0,1%, e però non del valore nominale, cioè di quanto valevano questi titoli, queste azioni, queste obbligazioni quando le ha comprate, ma al valore del momento nel quale si applica appunto l'imposta di bollo. Noi chiudiamo così questa prima parte di Focus Economia. Nella seconda parte ascolteremo, sempre sulla manovra, l'opinione dei commercianti, della Confcommercio, e poi parleremo di questa benedetta, maledetta Standard & Poor's. A tra poco. Le 18, 6 minuti e 45 secondi, continuano ad arrivare aggiornamenti sulla manovra, sia anche dal lato delle dichiarazioni, come quelle del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che dice dobbiamo fare dei sacrifici perché dobbiamo fare quello che ci chiede il futuro dei nostri giovani e la nostra appartenenza alla grande patria europea, lo dobbiamo per riconquistare autorevolezza. E poi ancora, quando certe riforme, decisioni e misure arrivano in ritardo, è maggiore l'impatto, l'insoddisfazione, la preoccupazione e il dissenso. E dice ancora Napolitano, è un compito duro, ma ce la faremo. Noi riprendiamo a parlare di manovra, e lo facciamo con un'intervista che ha realizzato la nostra Maria Luisa Pezzali con Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Confcommercio che stima un calo dello 0,3% del PIL per il 2012, quindi già dei consumi, scusate, per il 2012, e quindi già recessione, e un Natale al risparmio con un calo dello 0,4% rispetto al 2010. A tutto questo, se volete, aggiungeteci l'aumento delle accise, del quale ci è arrivata notizia che appunto non sarà dal 1 gennaio, ma sarà appena di fatto il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e sono 8,3 centesimi al litro per la benzina e oltre 11 per il gasolio. Dunque sentiamo l'intervista a Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio di Maria Luisa Pezzali. A partire dal dato di ottobre dell'ICC che è negativo, dopo settembre è negativo, quindi diciamo, abbiamo tutte le premesse per la concretizzazione di una fase recessiva, seppure di moderata intensità e si spera di moderata durata. Per il Natale il sentiment delle famiglie appare tutto sommato non particolarmente depresso, diciamo come lo scorso anno, quindi niente di speciale. Ci saranno dei cali dei consumi che riguarderanno soprattutto piccoli elettrodomestici, l'abbigliamento, e anche la tecnologia non è esente da qualche rischio, mentre sono sempre cresciuti i consumi di tecnologia, a Natale qualche possibile battuta d'arresto potrebbe esserci. Per quanto riguarda invece l'altra notizia di questi giorni, che sono ovviamente le misure contenute nella manovra, si preannuncia un altro intervento sull'IVA. Qual è la vostra posizione a questo riguardo? La nostra posizione è estremamente sfavorevole a questo tipo di manovra, fortemente depressiva. Non solo riduce, diciamo, il potere d'acquisto del reddito disponibile, ma riduce il potere d'acquisto di tutti i risparmi messi da parte, perché i prezzi ovviamente crescono, e diciamo l'abbiamo visto anche con la mini manovra dell'IVA a questo punto, quella dal 20 al 21%, l'abbiamo vista in ottobre, c'è stato un piccolo gradino inflazionistico, cioè i prezzi sono cresciuti dello 0,6%, quindi questo è stato già un segnale di premessa per la fase depressiva. Se si vuole tornare a far crescere i prezzi attraverso l'IVA nel 2012, con noi, con quello che dice il governo, ci aspettiamo un impatto inflazionistico dell'1,4%, con un effetto recessivo a parità di altre condizioni del meno 1% su PIL e consumi. L'altro aspetto in manovra che riguarda il commercio è la soglia dei 1000 euro per i pagamenti in contante. Ma alla fine noi dobbiamo ammettere che tutti dobbiamo fare un passo nella direzione del contrasto all'evasione e all'elusione, e se non si risolve quello non c'è manovra che tenga, quindi va benissimo, però che gli oneri siano ripartiti tra i vari attori. Le banche hanno sempre lamentato un costo nella gestione del contante. Ecco, se questo costo si abbatte, è giusto che una parte dei loro risparmi ricada su commercianti e consumatori in termini di minori commissioni. Pensiamo che sia ragionevole e possibile. Ci chiedete della benzina ed è il secondo sms che arriva da due persone diverse. Non è un refuso, scusate, o meglio sì, un refuso c'è, nel senso che sono 8,2 centesimi al litro, ma proprio di centesimi si tratta. Più 8,2 centesimi al litro per la benzina, più 11,2 per il diesel. Questo è quello che è previsto dalla manovra. Tra chi protesta contro questa manovra ci sono anche le farmacie, come sapete, perché ovviamente c'è questa previsione di poter vendere alcuni farmaci di fascia C anche nelle parafarmacie, non solo, quindi un'ulteriore liberalizzazione e anche prospettive di apertura di nuove farmacie. Sentiamo la presidente di Federfarma, Anna Rosa Racca, intervistata da Alessandra Schepisi. È una manovra iniqua, perché questa manovra non crea sviluppo e occupazione, vuol dire la fine del sistema farmaceutico in Italia, e vuol dire che ci sarà naturalmente, i medicinali non li venderanno più le farmacie, ma li venderanno i supermercati. Non esiste nessun paese al mondo in cui la ricetta medica è uscita dalla farmacia. non esiste nessun paese al mondo. Questo naturalmente porterà danni alla salute dei cittadini e soprattutto aumenterà i costi della salute. Quali danni economici invece prevede Federpharma? È logico, se i farmaci non stanno più nelle farmacie ma stanno al di fuori delle farmacie, noi dovremo, penso, mandare via delle persone, che sarà la cosa più dolorosa. Lei pensi, se soltanto ogni farmacia mandasse via una persona, 18.000 persone sarebbero sulla strada. Quindi alla faccia di quelli che dicono che si creano nuovi posti di lavoro. Quali forme di protesta farete? Noi abbiamo un'assemblea nazionale domani e l'assemblea deciderà le iniziative da intraprendere contro questa manovra, che è assolutamente iniqua, contro questa manovra che è devastante per il sistema farmaceutico italiano. Da segnalare oggi anche che il CIPE, sempre in merito alla manovra, ha dato il via libera a 2 miliardi per l'alta velocità Treviglio-Brescia e Milano-Genova, 600 milioni per il MOSE, 600 milioni per il contratto di programma ANAS e 123,3 milioni dal Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali. Questo il quadro tra... Un attimo, subito dopo la viabilità, ci occuperemo invece dell'altro argomento di giornata, ossia questo incredibile tempismo dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Ancora sulla questione carburanti, ci chiedete se ci sarà l'IVA anche su questa accisa. Normalmente è così, l'IVA è anche sull'accisa e quindi probabilmente riguarderà anche questo, quindi l'incremento sarà ancora maggiore. E sulle farmacie, ci fa notare Maria Giovanna da Treviso, le farmacie vendono ormai cosmetici, casalinghi, detersivi, scarpe, abbigliamento per neonati, gioielli, profumi, dice, e come mai si lamentano? Chiudiamo qua il capitolo, poi naturalmente sarà modo di affrontarlo nei prossimi mesi, possiamo scommetterci, e parliamo di Standard & Poor's. La notizia è arrivata ieri al termine di una giornata nella quale, come sapete, dopo la presentazione della manovra italiana c'è stato un netto miglioramento dal lato dei titoli di Stato italiani, perché è sceso non solo lo spread, ossia il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ma è sceso notevolmente anche il rendimento dei titoli di Stato italiani in se stessi, è sceso sotto il 6% e si mantiene più o meno su questi livelli. E al termine di una giornata nella quale Angela Merkel e Nicolas Sarkozy sembravano aver trovato finalmente un accordo sui destini dell'Europa, poi che uno sia d'accordo o no, che le decisioni le prendano in due è un altro conto, però una schiarita sembrava esserci. Fatto sta che Standard & Poor's ha messo sotto osservazione il rating di 15 paesi dell'Eurozona, Germania compresa, con Italia e Francia che rischiano una riduzione di 2 gradini. A perdere la tripla A potrebbero essere anche Olanda, Austria, Finlandia e Lussemburgo. In realtà facciamo prima a dirvi chi non la perderebbe: Grecia e Cipro, che sono stati, il cui rating è stato già abbassato precedentemente. Saluto il professor Donato Masciandaro, professore di economia politica alla Bocconi ed editorialista del Sole 24 Ore. Professore, buonasera. Buonasera a lei. Molti puntano il dito, professore, sul tempismo di Standard & Poor's, per così dire. C'è chi dice, ma insomma, questi non sono più arbitri, sono giocatori. Lei che cosa dice? Ah, io dico che non sono mai stati arbitri. Questo è la grande contraddizione da cui non vogliamo uscire. Le agenzie di rating sono aziende private orientate al profitto che emettono giudizi. Su alcuni titoli, che sono i titoli sovrani, non hanno informazioni diverse dagli altri, lavorano su titoli pubblici. Allora, perché il sistema continua a dare tanto peso a giudizi, opinioni? Ma la risposta è una sola: perché sono 20 anni che queste opinioni sono diventate parte integrante della regolamentazione. Quindi la colpa non è di Standard & Poor's, la colpa è dei regolatori che si lamentano ma continuano a mantenere questa assurda situazione. C'era su questo tema un bel commento proprio sul Sole 24 Ore, lei aveva scritto qualche mese fa, in agosto, che analizzava, professore, proprio quali sono le caratteristiche che ci si aspetta dalle agenzie di rating e quali e perché invece in realtà queste caratteristiche non sono rispettate. Le agenzie di rating nascono e trovano il loro successo perché offrivano al mercato qualcosa di diverso. Essenzialmente per tre ragioni: avevano informazioni migliori perché entravano nelle aziende, avevano metodi di analisi migliori perché li avevano solo loro e in terzo luogo perché erano indipendenti. Allora chiediamoci oggi quali di queste caratteristiche reggono ancora. Se lavorano su dati pubblici non hanno informazioni riservate. I metodi di analisi e di valutazione sono diffusi in tutto il mondo, anche in aziende diverse da quelle del rating, e non credo che abbiano personale migliore perché i loro stipendi non sono i migliori. Infine l'indipendenza, ma come si fa a dichiararsi indipendenti se si vive sulle fee di chi i giudizi subisce? Una volta non era così, quindi oggi non c'è alcuna ragione solida per dire che questi giudizi danno un valore in più al mercato. Sono valutazioni come possono essere espresse da chiunque altro. E come mai, secondo lei, devo dire che in realtà la giornata di oggi non conforta questa tesi, però come mai normalmente il mercato continua a dare tanto peso alle agenzie di rating? Perché, mi scusi professore, perché quello che dico è che in realtà chi opera sui mercati questa cosa la sa benissimo, quindi è una questione di connivenza. Qual è il punto? No, è di razionalità. Ciascun operatore sa di essere, o crede almeno di essere, più intelligente, più veloce degli altri. Vede un'opinione che conosce benissimo, che non lo sorprende, però sa che tutti gli altri reagiranno a quella opinione. Allora a lui non interessa che l'opinione sia fondata o meno su nuove informazioni, deve solo reagire un secondo prima degli altri. Ma siccome sono tutti intelligenti e tutti razionali, ecco che nel mercato si crea l'effetto gregge. E questo è esattamente il punto. Tra l'altro su questo tema, su Standard & Poor's, ci sono reazioni diverse, perché mentre Angela Merkel dice andiamo avanti sulla strada tracciata, Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, dice la minaccia di Standard & Poor's di declassare i rating di Francia e Germania è un incoraggiamento e la migliore motivazione possibile per il prossimo summit europeo. Tra l'altro Standard & Poor's, ve lo ricordiamo, nella giornata di oggi anche conseguentemente, ed era il timore più diffuso, anche conseguentemente deciso di mettere sotto osservazione il rating dell'IFSF, ossia del Fondo Salva Stati Europeo, anche qua per un possibile taglio di due gradini. Tra l'altro un giudizio questo su 15 paesi europei, lo ricordiamo, quindi su tutta l'eurozona sostanzialmente, che non ha precedenti e arriva ovviamente in un momento molto delicato. Tra l'altro Standard & Poor's, anche qua c'è chi dice si scopre l'acqua calda, nella conference call di oggi dice ci sono rischi concreti nell'eurozona di un credit crunch, ossia di una stretta del credito da parte delle banche. Nel suo commento di oggi sul Sole 24 Ore, professor Masciandaro, lei tocca anche questo tema, il tema della liquidità delle banche e della mano, un tema che toccavamo poco fa e che davamo nelle sue linee generali, dell'aiuto che è arrivato alle banche con la manovra. Ci può aiutare ad estendere il discorso? Guardi, non commento questa straordinaria notizia che lei ha ricordato, data dalle agenzie di rating, che c'è un rischio di credit crunch. È talmente originale, innovativa e dirompente che non ho parole per commentarla. Detto questo, spero che si colga la leggera ironia. Veniamo al tema davvero importante, che è quello del rischio liquidità. Il rischio liquidità dovrà essere affrontato seriamente nel prossimo weekend, quando l'Unione Europea dovrà dire chiaramente che i Paesi membri dell'Unione, se adotteranno nuove regole, saranno tutti Paesi che verranno coperti dall'Europa stessa. Quindi significa che i Paesi europei torneranno ad emettere titoli sani, e questo anche significa che il sistema tornerà a lavorare regolarmente. Senza questo disegno, questo significa anche che la Banca Centrale Europea potrà finalmente far lavorare la stabilizzazione finanziaria e mettere a tacere i falchi all'interno del Consiglio, che in maniera sbagliata interpretano il trattato. La European Banking Authority, che ne ha fatta una più di Bertoldo in questa settimana, potrebbe forse rinsavire e ripensare le assurde scelte sui coefficienti di capitale. Senza tutto questo, le garanzie dello Stato sulle banche, che sono un atto dovuto deciso in sede europea, non cambiano molto la situazione, perché le banche soffrono perché gli Stati non sono creduti. Allora, utilizzando la metafora di oggi del Sole 24 Ore, stiamo dicendo che dei malati, che sono le banche, che sono malati per colpa di un untore, che è lo Stato, adesso vengono garantiti dall'untore stesso, in più pagando anche per questa garanzia. Quanto tutto questo sia credibile lo lascio a chi ci ascolta. Un'ultima domanda, professore, e le chiedo di ritornare al tema delle agenzie di rating, perché, come ovvio, molte domande arrivano da qua. Secondo lei, qual è la vera via d'uscita da questo sistema, che a questo punto pare bloccato, perché il mercato, ci ha detto lei, si muove a gregge a seguito delle agenzie di rating. I cosiddetti regolatori faticano a trovare una via d'uscita. Lei cosa vede? Cosa si potrebbe immaginare? È semplicemente far tornare i giudizi delle agenzie a quello che sono, delle valutazioni di soggetti privati che massimizzano il profitto. Devono essere tolte da tutte le forme di regolamentazione e di regolamenti che creano quegli automatismi che i mercati anticipano. Insomma, in buona sostanza, le agenzie di rating hanno svolto un ruolo improprio di supplenza in questi anni, perché pur di non affrontare i costi di valutare, gli investitori si appoggiavano su questi giudizi, le autorità si sono appoggiate su questi giudizi. E le autorità cosa le paghiamo a fare? Loro devono fare indagini, devono loro valutare il rischio, non appoggiarsi sulle agenzie di rating. Quindi se ciascuno tornasse a fare il suo mestiere, gli investitori a investire in ricerca e i regolatori a prendersi le responsabilità sulla rischiosità, il giudizio delle agenzie di rating sarebbe un legittimo, sano giudizio di un soggetto di mercato e non sarebbe uno pseudo, come dice lei, giudizio di un arbitro. Grazie a Donato Masciandaro, professore di economia politica alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore. Dice intanto Timothy Geithner, segretario al Tesoro americano: segnali incoraggianti dall'Europa. Con questo chiudiamo. Un grazie anche a Mauro Del Corno in redazione, insieme a Barbara Bianchi, Paolo Corleoni in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.